Salve, questo è il risveglio del Treccia. In questa puntata vi parlerò del Viet Tai Chi. Innanzitutto, nel significato delle parole vietnamite Viet Tai Chi risiede la prima grande differenza con le arti di simile derivazione, come il Tai Chi Chuan. Infatti, anche se nelle lingue occidentali sono stati traslitterati con termini uguali, questi due nomi derivano da ideogrammi profondamente diversi. In cinese, Tai Chi è il supremo tutto, quello che in vietnamita è il Tai Cook. E Chuan è un termine delle arti marziali di combattimento. Invece le parole che formano il nome Viet Tai Chi hanno un significato diverso. Viet, superarsi, ed è anche il nome del popolo vietnamita. Tai, coltivare, Chi, la volontà, l'energia. Quindi coltivare l'energia per elevarsi. Il Viet Tai Chi è stato creato ed è distribuito dal maestro Fano Hang. Le tecniche del Viet Tai Chi sono molte e trovano la loro applicazione nella vita quotidiana. Ciascun movimento è indipendente e possiede una sua efficacia. Questo insieme di movimenti coordinati viene chiamato Quyen, o forma in italiano. I Quyen, o forme, nelle arti marziali vietnamite, oltre a trasmettere una strategia di combattimento, hanno un fondamento scientifico e soprattutto filosofico. Spiegare e far capire per radio alcuni movimenti e tecniche non è facile. Quindi, dopo avervi raccontato una storia riguardante un Quyen, forma più complesso, ne faremo uno più semplice e comprensibile per radio. Ma passiamo per il momento all'introduzione di quest'altra forma più complessa, il Dai Lao, di seguito la relativa storia di Tutuk, e poi passeremo alla forma semplice. Dai Lao significa una primavera senza fine. Il maestro Fano Hang tempo fa ha trovato dei documenti molto antichi che testimoniavano l'esistenza di un medico che aveva condotto esperimenti sulla longevità, esperimenti che vertevano principalmente sulla stimolazione di alcuni punti del corpo. Studiando questi documenti, il maestro Fano Hang ha creato questa forma e ha composto questo poema che aiuta a ricordare i profondi significati di questo Quyen. La storia di Tutuk. Tra il XIII e il XIV secolo, in un villaggio del Vietnam centrale, viveva un medico molto conosciuto, di nome Tutuk. Era molto saggio, studiava con dedizione e praticava la sua professione con passione. Ma ciò che soprattutto lo appassionava era la ricerca della longevità. Era anche un letterato, quindi tutto ciò che scopriva durante le sue ricerche lo trascriveva. Si racconta di lui che un giorno si recò a passeggiare sulla montagna. Cammina, cammina, giunse fino alle rive di un ruscello e sull'altra sponda scorse una vecchia donna che tesseva la seta. Il medico, incuriosito, le si avvicinò e le chiese cosa stesse facendo. La donna rispose che tesseva il filo della longevità e che nella vita tutto è relativo. Detto ciò, la donna gentilmente gli offrì la seta che stava tessendo. Il medico gradì moltissimo il dono e chinò la testa per ringraziare e salutare secondo l'antica tradizione vietnamita. Quando Tutuk sollevò di nuovo la testa, vide con grande meraviglia che al posto della vecchia signora c'era una bellissima giovane donna. Subito nacque l'amore fra i due, che si presero per mano e si inoltrarono nel bosco. Un giorno Tutuk sentì la nostalgia della sua gente e chiese alla sua compagna di tornare con lui al villaggio. La donna non accettò l'invito e con grande dispiacere lo lasciò partire. Veloce come il vento, Tutuk discese la montagna, ma giunto al villaggio non riconobbe quei luoghi. Tutto era cambiato. Cercò la sua casa, i posti a lui cari, ma invano. Chiese del proprio nome, ma nessuno disse di conoscere il medico Tutuk. Dopo lunghe ricerche, solo un signore molto vecchio disse che sì, quel nome gli ricordava qualcuno e che suo nonno gli raccontava che da bambino sentiva parlare di un medico molto saggio, il cui nome era Tutuk, che lasciò il villaggio diretto verso la montagna e non fece mai più ritorno. Il medico rimase molto colpito da quelle parole e capì che i suoi esperimenti avevano avuto esito positivo. Era riuscito a dimostrare che, come tutte le cose dell'universo, anche il tempo è relativo. Ed eccoci alla spiegazione del Quyen, la forma Thule, saluto semplice. Il saluto semplice aiuta la mente a tornare calma, inoltre dà impulso all'energia interna e il suo significato è anche il saluto che libera da ogni preoccupazione. Il saluto semplice Thule viene eseguito all'inizio e alla fine di ogni forma di allenamento, in senso di rispetto nei confronti di se stessi, dei compagni e del maestro, e come preparazione mentale alla meditazione. Può essere comunque utile anche eseguirlo in qualsiasi momento della giornata e quando si senta la necessità di ristabilire la calma e l'equilibrio interiore. In questo caso è consigliabile eseguirlo almeno 9 volte o aumentando di 3 in 3 fino a un massimo di 108 volte. La numerologia del PTC la spiegheremo in un'altra puntata. Questi numeri comunque sono molto importanti. Come è importante lavorare bene sulla respirazione, la muscolatura e la circolazione dell'energia interna. La sequenza si divide in 4 fasi. La prima è il distacco, la seconda è l'uomo e l'universo, la terza è umiltà, la quarta è determinazione. Poi le spiegherò meglio. La sequenza è semplice, anche se non è facile spiegarla a voce. Quindi, prima fase, distacco, posizione retta, in piedi, piedi uniti, colonna vertebrale dritta, occhi semichiusi, una mano accoglie l'altra e i due pollici si toccano. Le spalle sono rilassate. Inspirare profondamente e quando espiro il basso ventre deve essere rientrato e contratto. Seconda fase, uomo e universo. Dalla posizione precedente portare le mani ai fianchi verso la vita, inspirando, poi aprire le braccia disegnando un cerchio dal basso verso l'alto, congiungere le mani contraendo lentamente tutti i muscoli, i piedi si aggrappano al suolo per stimolare i 5 punti sulla punta di ciascun dito del piede, espirare, respirare in modo ampio e profondo ma non forzato. Fase, l'umiltà. Dalla posizione precedente, inspirare, dopodiché piegare il corpo al massimo in avanti, espirando dalla bocca, facendo rientrare il basso ventre. Quarta fase, la determinazione. dalla posizione precedente, raddrizzare il corpo, inspirando, premere le due mani una contro l'altra, i due pollici si spingono fortemente, espirare, colonna vertebrale diritta. A questo punto, per tornare alla fase numero 1, alzo le due mani unite verso il cielo, poi disegno un cerchio aprendo le braccia dall'alto verso il basso, espirando, per arrivare con le mani unite come nella prima posizione, che una mano accoglie l'altra e due pollici si toccano, e sono pronto ad eseguire la prima fase di nuovo. Rivediamo insieme la prima fase facendo più attenzione al poema. Quindi nella prima fase, dove le mani sono unite, i palmi rivolti verso l'alto, i pollici si toccano, le spalle sono rilassate, svuoto la mente, espiro, è la fase del distacco mentale. Spirito calmo, liberarsi da ogni preoccupazione, il distacco ci fa guadagnare la lucidità. Seconda fase, uomo e universo, inspirando porto le mani lungo i fianchi, poi dal basso verso l'alto e unisco le mani a preghiera, contraendo lentamente tutti i muscoli, i piedi si aggrappano al suolo per simulare i 5 punti con le dita, è la fase della mente serena in comunicazione con la natura, la comunicazione apre tutte le porte. E passo alla fase numero 3, la fase dell'umiltà. Inspiro e espirando mi piego in avanti, svuoto tutta l'aria dalla bocca, facendo rientrare il basso ventre. Spirito calmo, liberato dall'orgoglio. L'umiltà è un segno di elevazione dello spirito. Fase 4, la determinazione. Inspirando torno su con il busto, i due pollici premono l'uno contro l'altro con forza ed espiro. È la fase dello spirito rigenerato e determinato. La determinazione porta al successo. Alla fase 1 di nuovo, alzare le due mani unite verso il cielo, poi disegnare un cerchio aprendo le braccia verso il basso ed unire le mani una sopra l'altra, sempre con i palmi verso l'alto, i pollici che si toccano, e ricomincio con la fase del distacco mentale, fase 1. Facciamo di nuovo la fase 1, ma adesso faremo attenzione a quello che concerne l'energia. E quindi nella prima fase del distacco mentale, la circolazione dell'energia interna è favorita attraverso il palmo delle mani durante l'espirazione. Non vi dico i punti dell'agopuntura che vengono stimolati, comunque è sul meridiano del maestro del cuore, il pericardio, che è una porta d'uscita dell'energia. La stimolazione energetica di questo punto attraverso la respirazione, la concentrazione mentale durante l'esecuzione della posizione 1, il distacco, porta a beneficio alla salute e all'equilibrio della mente, poiché è antistress e normalizza la funzione cardiaca. Per lo sportivo, la pratica di questa posizione dopo un allenamento intenso permette il ritorno rapido all'equilibrio e rende più benefica l'energia accumulata. La fase 2, uomo e universo, aiuta allo stato di veglia, stimola la memoria e aiuta a lottare contro le vertigini e il mal di testa. In questa fase l'energia passa da un meridiano all'altro fino ad espandersi attraverso il corpo e raggiungere l'energia cosmica captata alla sommità del cranio. Poi circola lungo la colonna vertebrale e discende lungo le gambe fino alla pianta del piede. Dal punto di vista energetico, l'unione di questi meridiani permettono all'uomo di comunicare con il cielo, polo positivo, e la terra, polo negativo. La terza fase, quella dell'umiltà, rende flessibile la colonna vertebrale e stimola una serie di punti. La stimolazione del primo punto favorisce la capacità di apprendere, elimina i mal di testa e aiuta a lottare contro la febbre. Il lavoro del secondo punto invece aumenta il coraggio, la fiducia in sé e fortifica il fegato. Fase 4, la determinazione. L'esecuzione della fase 4 purifica i polmoni, stimola l'intestino grasso, sempre attraverso questi punti che non mi metto a dire quali sono, e raddrizza la colonna vertebrale. La stimolazione di uno di questi punti aiuta ugualmente la concentrazione. Inoltre, stimolare questi punti procura al viso un colorito chiaro e un bel timbro di voce. Velocemente la sequenza. In piedi uniti, colonna vertebrale dritta, occhi semichiusi, mani incrociate, spalle rilassate. Inspiro profondamente, il basso ventre deve essere rientrato e contratto all'espirazione. Allora, rivediamo di nuovo la sequenza. Piedi uniti, una mano accoglie l'altra, i palmi rivolti verso l'alto, i due pollici si toccano, ginocchia leggermente flesse. Inspiro e espirando rilasso le spalle e svuoto la mente. Questo è il distacco. Passo alla seconda fase, uomo e universo. Le mani, passando per i fianchi, disegnano un cerchio andando verso l'alto. Unisco le mani a preghiera, inspirando. Espirando, contraggo leggermente tutti i muscoli. Faccio attenzione ai dei piedi che si aggrappano al pavimento. Espirando. E passo alla fase numero 3, l'umiltà. Inspiro. E espirando, piego in avanti il corpo e svuoto tutta l'aria dalla bocca. Mi piego in avanti fino a raggiungere il pavimento con le mani e faccio rientrare il basso ventre. Quarta fase, la determinazione. Inspirando, ritorno su con il busto, le due mani restando sempre a preghiera, i due pollici premono l'uno contro l'altro con forza ed espiro. Questa è la determinazione. Se ho finito la sequenza, finisce con la quarta fase. Se non ho ancora finito, faccio il movimento di stendere le braccia verso l'alto, disegno un cerchio portando le mani verso il basso e ritorno alla fase 1 con le mani una sopra l'altra, espirando. L'ideale sarebbe ripetere il saluto per 9 volte. Comunque potete anche farlo 3 volte o multipli di 3, 12, fino ad arrivare a 108. La prossima volta, come già vi ho detto, vi spiegherò il motivo di questi numeri. Ricordate che il Thiele termina con la quarta fase, quindi quando ritorno su con le mani a preghiera, i pollici che premono l'uno contro l'altro ed espiro. Bene, spero di esservi stato utile o quantomeno di non essere stato troppo noioso. E vi saluto con una frase di Buddha: quando l'allievo è pronto, compare il maestro.